5C. Ascolta e rispondi. Signor Rossi, mi aiuta? Sì, la aiuto con piacere. Dottoressa Micheli, mi aspetta? Sì, la aspetto con piacere. Professore, mi accompagna? Sì, la accompagno con piacere. Ingegnere, mi ascolta? Sì, la ascolto con piacere. Signora Bianchi, mi attende? Sì, la attendo con piacere. Direttore, mi assume? Sì, la assumo con piacere.